La Madonna. Testo estratto dal libro del cardinale Giuseppe Siri, Esercizi spirituali, edizioni Pro Civitate Cristiana, Assisi 1962. Parliamo della Madonna. Non è semplicemente perché è argomento direi d'obbligo, è argomento così insito alla pietà cristiana che non se ne può fare a meno, ma perché c'è un altro motivo. Il motivo è questo. Ho cercato di richiamarvi ad avere niente più di quel che si deve di stima al mondo e senza abbandonarlo, perché non lo possiamo abbandonare. È qui che abbiamo il campo della nostra prova. Ho cercato di invitarvi alla vita contemplativa e al senso soprannaturale della nostra esistenza. Ma tutto questo bisogna che avvenga umano modo, perché siamo uomini. Ecco l'ultimo argomento, umano modo. Noi non siamo esseri astratti, non siamo spiriti, ombre, angeli. Siamo uomini fatti di umanità, circondati di umanità, sospinti, tirati e sommersi dall'umanità. E pertanto il discorso sulla Vergine Madre del Signore equivale a queste due parole: contemplazione sì, ma umano modo, in modo umano. La Santa Vergine è, per via della sua caratteristica di madre, quella che nella nostra vita permette a tutte le cose umane di diventare divine e fa sì che tutte le cose che sono divine si umanizzino e arrivino al nostro livello. Non dimenticatelo mai. Questa è l'ultima parola che vi lascio. La Vergine Santa è il gradino per arrivare alla contemplazione, perché per quanto noi vogliamo realizzare questa contemplazione, la ragione dell'umanità che ci circonda, che ci compone, che ci sommerge, crea certamente una serie di problemi, di difficoltà, di carenze, di ombre, che hanno una soluzione messa da Dio e si chiama la Madre del Signore, la Vergine Madre di Dio. La caratteristica fondamentale della Santissima Vergine è questa, che essa è la Madre di Dio. Qui c'è tutto, tutto il rimanente è per questo e in ragione di questo. Noi dobbiamo credere e ritenere per certo che nello scegliere una creatura a tale ufficio, Dio, nella sua eterna scienza dei futuri e dei futuribili, ha visto i motivi per scegliere Maria piuttosto di qualunque altra creatura. Perché Dio fa le cose bene e tutte le cose hanno sempre una ragione eterna, e questa è la grande antifona del merito personale della Vergine. Se è stata scelta lei, la scienza dei futuri e dei futuribili ha indicato a Dio che il merito di questa Vergine la poneva dinanzi a tutto e a tutti perché fosse la prescelta. Ma tutto è in lei perché è stata la Madre di Dio. Perché è Madre di Dio? Perché ha dato a Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uomo, quello che danno tutte le altre madri, il corpo, e l'ha dato in modo superiore a tutte le altre madri, perché in ragione della sua verginità, per miracolo unico nel genere umano, nella storia degli uomini, Maria Santissima è stata la causa unica della divina maternità. Per cui la verginità della Vergine fa la Madonna più madre di tutte le altre madri, cosa che non bisogna dimenticare. Essa è la madre per eccellenza, e questo vuol dire che è madre in un ordine che ha tutto quello che hanno tutte le altre madri, più qualche cosa di molto grande, proprio perché è Vergine. Perché è madre di Dio? Perché il concetto di maternità è una relazione È un rapporto e il concetto di maternità lo si rivela sempre dal termine del rapporto. Tutte le altre madri che cosa danno ai loro figli? Danno solamente il corpo, non danno né l'anima né la personalità. Eppure le chiamiamo solo madri del corpo del figlio o madri del figlio? Sono madri del figlio e non semplicemente madri del corpo del figlio. E dandogli il corpo, il rapporto, la relazione con chi è instaurata? Col termine a cui è dato il corpo, cioè con la persona del figlio che è creata da Dio. E allora si qualificano dal termine della relazione di cui le madri pongono l'obiettivo fondamento dando il corpo. Siccome lo danno alla persona del figlio, si dice che sono madri del figlio. È la stessa cosa per la madre di Dio. Essa ha dato il corpo umano al Figlio di Dio, ma a chi l'ha dato? Lo ha dato alla persona eterna del Verbo, perché il soggetto terminale di questa relazione, di questo rapporto, è il Verbo stesso, non la creatura, e pertanto la relazione è contratta con lui, col Verbo. Ecco perché essa è la madre di Dio, Theotokos. Voi sapete che cosa è successo quando Nestorio ha cercato di attaccare questa verità? La Chiesa si è alzata in piedi col concilio che ha lasciato nell'antichità l'impressione più commovente nell'anima del popolo cristiano, il concilio efesino. È successo proprio questo, che quando hanno proclamato la divina maternità della Madonna contro l'eresia di Nestorio, il popolo, che sente sempre la madre, sempre, ha fatto ciò che non ha fatto per nessun altro concilio. Il popolo di Efeso si è armato di torce la sera del giorno in cui è stata fatta la definizione finale e la condanna di Nestorio ed è andato a prendere i padri del concilio e li ha portati in trionfo al chiarore delle torce. Tutto quello che fa grande la Vergine è che è la madre di Dio. Tutti gli altri privilegi sono stati dati ad essa perché è madre di Dio, vergine perché è madre di Dio, immacolata perché è madre di Dio. Ma vi ho detto che essa è il gradino, è quell'elemento che porta l'umanità nella contemplazione e permette che ad onta della nostra umanità noi possiamo vivere in modo tale da dire che la vita nostra è conversazione nei cieli. Devo dire la ragione. Guardate dov'è la ragione. Maria è stata il gradino di tutto. Per quale motivo San Luca e San Matteo hanno dato la genealogia di Gesù Cristo? Per quale motivo San Paolo ha fatto un così vivo riferimento a quella genealogia, dicendo chiaro che Gesù Cristo è fatto da Adamo, è fatto dalla carne, è fatto da una donna? Perché Gesù Cristo è stato in grado di riversare capacità divine nel genere umano e togliere il peccato che gli uomini non potevano togliere perché li superava? Perché Gesù Cristo ha preso sopra di sé il peccato di tutti gli uomini? Ma credete che sia una cosa semplice? Per quale motivo Gesù Cristo ha potuto prendere sopra di sé il peccato di tutti gli uomini e quindi, come dice San Paolo, ha potuto ricapitolare il genere umano in se stesso? E fare la sostituzione vicaria, che è l'aspetto più commovente della passione del Signore? La ragione è che Gesù Cristo poteva rappresentare tutti gli uomini. Ma per quale motivo Gesù Cristo poteva rappresentare tutti gli uomini e pertanto ricapitolarli in se stesso? Li poteva rappresentare tutti gli uomini perché lui apparteneva alla famiglia umana. Il che vuol dire che non era soltanto della specie umana, corpo e anima come noi. No, non sarebbe stato sufficiente questo. Sarebbe mancato il collegamento. Sarebbe stato collegato al genere umano come poteva essere collegato se ci fossero ai marziani.